I 40 anni dell'Osteria dell'Orsa, così in maniera sintetica, difficile da racchiudere in questi 5 minuti in compagnia di Fabio Rodda, che è qui al telefono con noi in diretta. Buongiorno e benvenuto, Fabio. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma faremo del nostro meglio per riuscire a essere sintetici, ma allo stesso tempo esaustivi. Il modo migliore, secondo me, per ottenere questa simbiosi è partire dalle emozioni. Fabio, tu sei stato cliente e poi protagonista. Che passaggio! È come essere al Boston Garden come spettatore, poi improvvisamente giocare come atleta. È stato un passaggio non da poco, Fabio? Wow, che paragone, fantastico! sì, è stato un passaggio abbastanza casuale, naturale. Io sono arrivato nel 96 a Bologna a studiare, sono cascato la prima sera della mia vita bolognese dentro l'Osteria dell'Orsa, non sono più uscito. Sono passati un po' di anni ormai. Mamma mia, da cliente, che affitto che devi pagare! Abbastanza lunghina, sai, diventi amico, cominci a fermarti la sera tardi, aiutare i ragazzi che lavorano a sparecchiare perché sei l'ultimo rottame dentro la sala, poi alla fine ti dicono: ma ascolta, passi talmente tante ore a questo bancone che perché non vieni a passarle dietro, visto che ti devi mantenere all'università. E così è stato, ho cominciato. Il mio attuale socio Marco Orienti, al tempo era lui con Franco soci dell'Osteria dell'Orsa, mi hanno detto: ma vieni a fare il cameriere qua invece che fare il barista in giro. Così è cominciata qualche ora a lavorare lì e poi quasi per caso c'era da ristrutturare l'osteria, avevano bisogno di forze fresche, io ero giovane e loro pazzi probabilmente, e quindi la combo ha fatto sì che mi abbiano tirato dentro questa armata Brancaleone ormai incredibile. E le armate Brancaleone sono sempre quelle di successo, o almeno sono sempre quelle che portano grandi sogni. Per me non erano pazzi, erano semplicemente desiderosi di crescere. E poi tu tuttora non posso certo definirti vecchio, siamo coetanei, quindi su, dai. E poi siamo diversamente giovani. Diversamente giovani. Cos'è per te in relazione a Bologna l'Osteria dell'Orsa? Beh, ecco, questa è la cosa che mi preme di più dire, perché è un po' il motivo di questa festa e del libro che presenteremo a questa festa, piccola anticipazione, perché l'Orsa per Bologna è un pezzo di storia, non è soltanto un locale. All'Orsa sono nate, sono vissute esperienze che sono diventate poi fondamentali per tutta la città. Vuol dire, tutta la scena punk bolognese è passata dall'Osteria dell'Orsa tra il 79 e i primissimi 80. Se ne può parlare con Steno, Dei Nabat, Pedrini, Ex Fuming, insomma c'è un sacco di gente che può raccontare quanto ha vissuto nella sala sotto dell'Orsa, che diventava una sala concerti punk. Pochi anni dopo il jazz, cioè la musica jazz che è nata lì dentro prima che esistessero i locali veramente dedicati al jazz, la sala jazz più fumosa e forse strampalata ma strapiena di Bologna era comunque l'Osteria dell'Orsa. Sono passati Tamburini, Fresu, Tavolazzi, insomma nomi enormi della musica jazz che lì da giovincelli suonavano, organizzavano, auto-organizzavano. È stata un'esperienza molto molto bella. L'università, quando Giorgio Gattei veniva a tenere i suoi seminari all'Osteria dell'Orsa portando i suoi studenti, più il gruppo più affiatato dei suoi studenti, ci abbiamo presentato libri, fatto mostre di quadri, insomma è passata veramente, in 40 anni è passata tanta storia della città, e io volevo rendere omaggio a questa storia e quindi ringraziare Bologna per quello che ha dato all'Orsa e far sì che Bologna ringraziasse l'Orsa per quello che l'Orsa ha dato a Bologna. Certo, quindi di anche un libro, la presentazione di un libro in tutto ciò. Esattamente, perché proprio per festeggiare i 40 anni abbiamo pubblicato, adesso uscirà, cioè è un'autoproduzione, quindi l'avremo disponibile lì per gli amici, ed è un libro che si chiama 40 anni di Orsa e racconta proprio la storia dell'osteria. Sono andato a recuperare Maurizio Sicuro, il primo, colui che ha aperto l'Osteria dell'Orsa, chiamando l'Osteria dell'Orsa, attuale gestore dell'Osteria dei Vini d'Italia, altra storica osteria bolognese. Ci siamo trovati, è stato molto bello incontrarsi e sentirmi raccontare le cose che io non potevo sapere dell'Orsa, perché avevo 2 anni quando l'Orsa ha aperto. Però insomma, venendo io poi invece dalla storia ammirando la storia punk di questa città, il motivo per cui, uno dei motivi per cui sono venuto a vivere qua più di 20 anni fa, è stato molto emozionante sentirmi raccontare quello che io avevo solo sentito nominare, sentirmi dire che erano stati lì in piedi su quei tavoli su cui adesso la gente mangia, ci facevano i concerti in Abbath e altri gruppi storici di quella scena là. Cioè, da lì la voglia di intervistare altri protagonisti, soprattutto per quanto riguarda la musica, poi alcuni amici che hanno deciso di regalarci dei racconti, quindi questo libro che è un po' il racconto di quello che Bologna ha attraversato, attraversando loro l'Orsa ha lasciato, la storia dell'Orsa, quindi anche delle chiacchierate con i miei soci, e poi questi regali di questi amici che ci hanno dato brevi racconti molto belli, alcuni veramente eccezionali. Ce ne so per nominare forse Ugo Cornia, uno dei migliori scrittori italiani viventi, direi, che ha deciso di regalarci questo raccontino bellissimo, e forse verrà anche a leggerlo sabato. Bene, non solo domande sul velluto e di ricordi, ma anche un po' così particolari. Com'è cambiato il pubblico? Cosa noti di diverso? Cosa hai una sensazione di cambiamento per quanto riguarda? Indubbiamente sì, ma come l'hai trovato? Beh sì, è cambiata tantissimo. Io poi posso raccontare da protagonista con i miei occhi gli ultimi 15 anni, 20 anni se ci mettiamo anche quelli da cliente. È cambiata moltissimo, ma perché è cambiata moltissimo la città, è cambiato moltissimo l'Italia, è cambiato moltissimo il mondo. Cioè, viviamo negli ultimi 20 anni, il mondo è completamente cambiato, così questa città e così anche l'Orsa. Se 20 anni fa c'era la fila di studenti, operai, artigiani che lavorano lì, adesso c'è la fila di stranieri, perché Bologna è una delle capitali mondiali ormai del turismo enogastronomico. Abbiamo i nostri clienti storici, gli affezionatissimi, gli amici che ci vengono a trovare, gli studenti che non sono più studenti perché ormai hanno i figli e lavorano già da 15 anni nelle varie aziende, che tornano con i figli a trovarci, e ti ricordi quando nel 98 qua dentro facevamo eccetera eccetera. E poi parli tutte le lingue del mondo, ma veramente tutte le lingue del mondo, perché se una sera all'Orsa ti viene voglia di chiedere ai vari tavoli da dove vieni, io penso che potresti riempire un... Hai presente quando si giocava a Risico? Sì, metti le bandierine ovunque. In tutto il mondo, ma veramente ovunque. E hai detto bene, le bandierine, perché è quello che vogliamo mettere come segno di condivisione, e non certi carri armatini, tutt'altro. No, solo le tutt'altro, bandierine. Solo bandierine da scambiare con tutte e con tutti. Inizio festa, come organizzato, come ci puoi dire qualcosa? Allora, guarda... Allora domani si chiude via Mentana al traffico stradale, si mettono delle bellissime transenne da una parte e dall'altra, così si va solo a piedi. Ci sarà una zona, chiamiamola palco, anche se un palco vero non ci sarà perché per questioni di regolamenti e tempistiche non era possibile montare un vero palco, ma sarà un'area che chiamiamo palco con il suo impiantino. Alle 18 si presenta il libro 40 anni di Orsa, dalle 19 alle 23 musica dal vivo, ci saranno Felice Del Gaudio e Mimmo Turone con le rispettive band per ricordare il jazz all'Osteria dell'Orsa, il folk dei KOC, e poi il duo Grampa che suonerà blues, per chiudere poi con i Laser Geyser, tutti i gruppi in cui militano attuali o ex collaboratori dell'Orsa. L'abbiamo voluto fare proprio per questo, per renderci e rendere omaggio a loro. Poi in strada l'Osteria dell'Orsa sarà aperta normalmente con il suo solito menù, però in più in strada ci saranno un paio di spine della birra, un banchetto per bere spritz e vino e una piccola cucina di strada, nel senso che riusciremo a fare un po' di asporto, chiamiamoli panini, in realtà saranno dalle spianate, insomma si mangeranno delle cose sempre buone, stile Orsa, però le puoi prendere e mangiare anche per strada mentre ti guardi il concerto. Mentre c'è il concerto, certo. Io citerei anche la collaborazione col Jukebox Caffè. Certamente, assolutamente, Jukebox Caffè è penultimo arrivato, cioè sono stato arrivato più o meno in contemporanea con l'Osteria dell'Orsa fuori porta, fa parte del gruppo degli Orsi, nostro peraltro vicino di strada, nel senso che abbiamo l'Orsa di fianco al Pasta Fresca dell'Orsa, al portone dopo è il Jukebox Caffè. Chiudendo tutta la strada, il Jukebox Caffè sarà peraltro protagonista di tutto ciò che è drink della serata, perché si va a prendere da bere là dentro. Ormai squadrone affiatatissimo, Orsa e Jukebox, è molto bello avere non solo dei vicini di casa, ma dei fratellini nella stessa via divertente, quindi la collaborazione sarà facilissima e spontanea e molto molto divertente. Viva l'Osteria dell'Orsa! Sì, sì. Una cosa al volo che vorrei dire: tutta la serata, anche in collaborazione con ERA, oltre che col patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna City of Music UNESCO, sarà plastic free. Lo dico a chi ascolta: si arriverà in via Mentana per prendere da bere al bancone del Jukebox o nei banchi esterni, come si fa in tutti i festival musicali d'Europa ormai da anni, un eurino per acquistare un bicchiere loggato Osteria dell'Orsa, con cui bere tutto quello che vuoi per tutta la sera, bicchiere che poi puoi restituire quando te ne vai, ti viene restituito l'eurino, o tenere in ricordo. Non si potrà portare dentro vetro e non ci saranno rifiuti se non organici, così per dare un segno anche della nostra partecipazione alla sempre più alta attenzione all'ecologia che la città sta dimostrando.